insieme a piedi nudi nello strazio. Tuo padre è un vecchio e non mi parla, sua figlia è un'oca e non mi parla. Con le risposte fuori la stanza, sorta di sana incoerenza. Tuo padre è un vecchio e non mi parla, sua figlia è un'oca e non mi parla. Con le risposte fuori la stanza, all'uguaglianza. Padre un vecchio e non mi parla, sua figlia è un'oca e non mi parla. Con le risposte fuori la stanza, all'uguaglianza. Da fare invidia agli astronauti, anche se non vorrei mai passare un'esistenza intera a macellare.